Aziende, università, costruttori e progettisti, il Forum della Tecnica delle Costruzioni è un momento di incontro e di confronto. Quanto mai attuale il tema della terza edizione, la riduzione del rischio sismico. Presenti nello spazio espositivo di Madexpo i comuni emiliani colpiti dal sisma dello scorso maggio. A Finale Emilia, entro il mese di novembre, partiranno le attività di una scuola materna donata da Federlegno e Cosmit, realizzata interamente in legno, materiale oggetto di sperimentazione nell'ambito dello sviluppo di nuove tecnologie costruttive, come spiega Roberto Scott, ricercatore di tecnica delle costruzioni all'Università di Padova. Sono delle costruzioni per noi nuove in Italia. È importantissima la ricerca che stiamo facendo in Italia perché stiamo abbinando alla tecnica costruttiva del legno, che è tipica dei paesi nord europei, alla capacità di resistenza sismica che dobbiamo dare in Italia. L'ostacolo da superare è un mercato ancora diffidente per il costo e per la durata del materiale nel tempo. Quando riusciremo a avere queste cose sistemate per bene, ed è qui che i giovani ingegneri aiutano, riusciremo sicuramente a vincere diffidenza del mercato. Irene Privitera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.